Buongiorno, io sono Cristina. Gerard, buongiorno. Mi dica. Ma se ha piacere di raccontarci la sua esperienza qui a Dormea e eventualmente come è arrivato qui, se è residente, non è residente, no. Come vede da oggi in poi. Allora. Ci allontaniamo se no sì. Siamo disturbati. Allora, il problema è qualche anno fa che mia moglie e io avevamo problemi respiratori. Quindi motivi di salute, quindi. Motivi di salute. E siamo venuti qui per quello. Poi naturalmente età pensionabile, io ho chiuso la mia attività, un'attività un po' particolare di auto da collezione d'epoca. E quindi ci è voluto un po' di tempo, abbiamo trovato prima casa, poi un locale per mettere le mie macchine da collezione, sì. E poi abbiamo deciso di aprire al pubblico, però senza far pagare nulla. Sì. Ingresso libero. Ingresso libero e gratuito per i turisti e per quelli che sono come me amanti delle auto d'epoca. E quindi ha questo spazio? Sì, da un anno abbiamo incominciato a aprire una parte perché è un grosso caseggiato. Prima l'abbiamo ristrutturato, poi ho cominciato a portare delle vecchie ruggini, io le chiamo così, e abbiamo adesso due piani. In uno c'è 100 e dintorni, cioè le macchine super giù centenarie o oltre 100 anni. E poi abbiamo un reparto sportivo dove c'è varie epoche, dalle più recenti, diciamo che sfiorano gli anni 2000, fino agli anni 50, quelle insomma della mia età. Ecco, che l'ha vissuta. Le altre sono macchine che erano di mio papà e dei miei zii. Ho capito. Da dove venite? Torino? L'accento no. È torinese, ma io sono nato a Monaco. Monaco? O Principato di Monaco. Principato di Monaco. Beh, immagino. Gerardo. Perché mia mamma era... Monegasca. Lì. Sì. Bene. E da oggi in poi come vede Ormea? Da qui ai prossimi 10 anni? Ma io spero di dare un contributo al risveglio di questa bella cittadina e di tutta l'Alta Valtanaro. Perché veniamo di organizzare un raduno la settimana scorsa, abbiamo messo assieme 110 partecipanti, abbiamo riempito le due piazze via Roma e anche lì dove c'ho il mio locale. L'ha fatta felice questa cosa? A me particolarmente sì, penso che anche gli ormeaschi siano contenti di questa cosa. Sì, sì, sì. Le prime sensazioni che ho avuto sono state buone. Adesso in previsione ci sarà prima di tutto penso a settembre o fine settembre o primi di ottobre ci sarà un raduno dell'ACI storico, sì. A cui parteciperemo e bisognerà vedere come organizzarlo, quindi saremo in rapporti con l'ACI di Cuneo. E poi sto in trattative per il Club 500, che è un club molto attivo di Albenga, c'è anche una sezione a Ceva e vedremo di fare anche qualcosa nell'ambito dei cinquini. Io sono anche un appassionato di cinquini, tra l'altro ne ho avuti un certo numero. Sì, avevo tutti i modelli. Dalla prima N del 57 fino alla R, adesso un po' diminuito. Comunque. Bene, bene. Vai. Si sta bene qui. Sì, direi che è una cosa. Noi ci troviamo bene. All'inizio era per passare i weekend. Si sta bene. Poi un po' di più. Poi la vacanza. Abbiamo rovesciato. Stiamo più qui che sì, sì, sì. Bene, bene. Allora, noi siamo qui sia oggi che domani, e domani pomeriggio faremo un gioco per immaginare insieme quello che possiamo... Mi permetti? Sì? Devo vestirmi assolutamente sì, sì, ci mancherebbe, certo. Non c'ho il cappello. Sì, cosa immaginare? Il futuro di Armea. È un gioco e, sì, e giocando proviamo a confrontarci. Nel mio gruppo, no, noi nel... non proponiamo nulla, no, cioè non lo so. Io da parte mia con i miei contatti nell'ambito delle macchine d'epoca qualcosa si può fare. Bene. Soprattutto Ormea, ma anche l'Alta Valtanaro, che è comunque, se fosse in Svizzera questa Alta Valtanaro. Ma siamo qui e quindi facciamo la minestra con le verdure che abbiamo nell'orto. Speriamo di farla, fare un buon minestrone. E sarà squisita, sarà squisita. Va bene. Va bene, allora l'aspettiamo. Noi, domani dalle 4. Domani dalle 4. C'è anche una riunione a Coso, Santuario di Vicoforte. Io spero di vederla, comunque faccia come può. Grazie, grazie infinite intanto. A presto, grazie.